Conserviamo il nostro cuore di fanciulli. Perché abbiamo tante fanfaluche per la testa? Ci sono quelli che si rompono la testa oggi per domani. E peggio, c'è chi si fascia la testa ancora prima di romperla. Oh, ma siamo ridicoli. Noi grandi siamo ridicoli, che ci rompiamo la testa oggi per domani, che la fasciamo la testa oggi prima di romperla. Oh, i bambini queste stranezze non le fanno. I bambini hanno da giocare loro. A volte giocano anche col pericolo, perché non hanno pensieri, non hanno preoccupazioni loro. Non c'è pericolo che un bambino si rompa la testa oggi per domani, o si fasci la testa prima di romperla. Ha da giocare lui, non ha tempo da perdere. Non ha i pensieri dei grandi. Ma questa grandeur non fa bene. Stiamo piccoli nel cuore, fanciulli, e allora non invecchieremo precocemente. E qualora anche avessimo sulle spalle 80 anni, 90 anni, saremo come Papa Giovanni XXIII, che fa il Papa, indice il Concilio Vaticano II, che raduna tutti i vescovi della terra, commuove il mondo a 80 anni suonati, quel cuor di fanciullo. Dio non invecchia, e chi è amico di Dio sta volentieri con i bambini. Con quanta gioia un è venuto a dirmi oggi: sto aspettando il terzo bambino. Bravo! Così si resta giovani, vivendo con i piccoli, pigliandoli dal cielo come la terra ha preso il bambino Gesù dal cielo. Qualcuno crede di disonorarsi, di sciuparsi pensando ai bambini e vivendo con l'animo di fanciullo. Eppure abbiamo avuto nella storia delle ottime persone, intelligenti persone, vorrei dire per un'iperbole, intelligentissime persone che ci hanno tenuto a comportarsi con semplicità, con fiducia, con serenità, con ottimismo, con cuore da fanciullo. Alessandro Volta, lo scopritore della corrente elettrica, celeberrimo nella storia universale, cristiano cattolico, Alessandro Volta. Tutte le domeniche andava a catechismo, non con i grandi, a catechismo con i bambini delle scuole elementari. Allora il catechismo veniva fatto non in stanze, in aule, fabbricate intorno alla chiesa o nella canonica. Oh, questo lusso non c'era. In chiesa si facevano dei cerchi con le sedie o con le panchine, cerchi da 10, da 20, da 30 ragazzi, e supponiamo dalle 2 del pomeriggio fino alle 3 o alle 4 c'era il catechismo dei piccoli, non in aule scolastiche, nella chiesa, ecco, questi capannelli, e lì c'era un catechista o una catechista o il parroco o il curato o un insegnante che faceva catechismo, e non con una dottrina ciascuno in tasca. Era un lusso. C'era un catechismo, l'aveva in mano soltanto il catechista, il parroco, il curato, l'insegnante. E questo proponeva le parole e questo crocchio di ragazzi ripeteva le parole. Alessandro Volta entrava in chiesa, dava un'occhiata ai circoli e poi andava dove c'erano i più piccoli, di prima o seconda elementare, e si sedeva vicino a loro. Allora l'insegnante diceva: «Ma no, le cedo il mio posto?» «No, no, no, no, io sto volentieri qui con i piccoli, ma lei ne sa tante cose.» «No, no, no, stia lei, catechista, stia lei, signor parroco, io qui con i piccoli, mi lasci qui tutte le domeniche.» Alessandro Volta va a catechismo, non con gli adulti, con i piccoli. E un giorno ci fu un bel imbusto che gli fece una critica. Lo aspettò fuori della porta della chiesa e disse: «Ma com'è possibile che Alessandro Volta vada in chiesa a catechismo con i bambini? Lei disonora la scienza in questa maniera». «Come? Disonoro la scienza? Oh, ma di fronte al catechismo e alle verità della fede, io penso che siamo tutti ignoranti. Me per primo. Lasciate che io vada con i piccoli, i più ignoranti, così non mi dimentico di essere anch'io tanto ignorante. Se io vado con i grandi, mi metto in testa di saperla lunga. In fatto di religione, Alessandro Volta è sempre un ignorante. Lasciatemi andare con i più piccoli». Alessandro Volta, un laico, uno scienziato, uno che poteva far scuola, insegnare tante cose stupende, l'inventore della corrente elettrica, che va a catechismo con i piccoli e chiede un posticino fra i più piccoli. «Ma scusi, signor Alessandro, noi abbiamo le seggioline per i piccoli. Aspetti che andiamo a prendere una poltroncina in presbiterio». «No, mi fate un dispetto. Che figura ci farei io con questi piccoli seduto su una comoda poltrona? Via, via, via. Fatemi questo regalo, lasciatemi questo seggiolino». «Ma, signor Alessandro, si sta malcomodi». «No, nessun disturbo, nessun incomodo. Via, via, non venite a darmi più noie. Lasciatemi andare a catechismo con i bambini».